volta un paese lontano, tanto bello quanto insano, un paese stupendo, con tanta bella gente che sorrideva sempre, governato da pazzi, folli ed egoisti, poveri dentro, con sguardi tristi, ricchi fuori, grazie a nuove tasse, ogni giorno svuotano le casse per le loro spese, i loro divertimenti, comprando nuovi appartamenti. Ma un giorno il popolo si è ribellato, da quel giorno tutto è cambiato, fuoco dalle masse, l'unica soluzione, fuoco che purifica ogni peccatore, fuoco dalle masse, da gente disperata, fuoco che ripara ogni scelta sbagliata, fuoco dalle masse, soluzione estrema, fuoco che cancella tutto il sistema, fuoco dalle masse, unica soluzione, fuoco che purifica ogni peccatore. Ora questo paese è fatto di rovine, hanno scritto la parola fine su una democrazia solo a parole, una dittatura alla luce del sole, nessuna legge li ha potuti fermare, nessun processo li poteva attaccare, tutta la gente stava a guardare il grande circo che li stava a governare, senza fermarsi un giorno a pensare che tutto questo poteva cambiare, bastava solo non stare ad aspettare, mettersi in marcia e iniziare a lottare. Fuoco dalle masse, l'unica soluzione, fuoco che purifica ogni peccatore, fuoco dalle masse, da gente disperata, fuoco che ripara ogni scelta sbagliata, fuoco dalle masse, soluzione estrema, fuoco che cancella tutto il sistema, fuoco dalle masse, l'unica soluzione, fuoco che purifica ogni peccatore, fuoco dalle masse, da gente disperata, fuoco che ripara ogni scelta sbagliata, fuoco dalle masse, soluzione estrema, fuoco che cancella tutto il sistema.